complimenti a Gianni, l'hai tenuta veramente molto molto bene, e poi funziona. Adesso domani compro quello spray che ti ho detto, già l'apro e pulisco il commutatore. Pulisco il commutatore, capito? Ascolta, ma c'ha canali alfa questa radio, gli hai messo dei quarti canali alfa? Perché mi sono spostato con Roberto, lui era sul 16 e invece io sul 16 alfa. Davvero. Vabbè, io chiudo là. Ciao ragazzi, buona serata. Vediamo cosa ne fa per me. Aspetta, no, ma ci vediamo. Massimiliano, dove stai andando? Massimiliano, sto dopognando, ogni andata deve venire in varioni, grazie, miglia e sarra. Io magari devo fare qualcosa urgente, grazie. Urgente è quando uno deve andare in bagno. Usci da lì, ciao ciao ciao, e sparisce. Massimiliano. Un'altra fredda ci deve fare, proprio quella che ci ha fatto prima era troppo calda. E a lui se non interessano gli argomenti, Billy e Sarra sempre. Vabbè, riprendi Gavì. E quindi, ascolta, quell'alimentatore l'hai aperto, no? Sì, sì, l'ho aperto. Te l'ho detto, è stata una conferma. Quei due finali sono odio di shock. Tutti e due in corto sono. Adesso devo vedere un po' se riesco a trovarli. E poi dovrebbe essere a posto. Perché non ne ha fuggiato di quei dio di Gavì? E adesso lunedì chiamo e vediamo un po'. Via. Sì, perché te l'ho detto, io stavo modulando e si è spento, mi si è trovato dalla radio, era sul 440 o sul 430, non mi ricordo. E poi l'ho riacceso e faceva questo rumore che ha fatto a te, hai visto quel rumore strano? E quindi l'ho staccato e l'ho messo a parte, non l'ho più usato, mi sono collegato all'altro alimentatore che c'aveva. Vabbè, cosa pensi che ne valga la pena ripararlo, sì? Penso di sì, ma sicuramente lo stavi usando con qualche lineare, possibile stavi usando più di qualche ampere in più, diciamo, possibile. Ho capito già, cazzo, non gridare, quando modula Claudio lo sento bene, due devi tutto imbarriato, Jesse. Cosa me lo stai dicendo? L'ho portato a Gavino che è radiotecnico, cosa ne gioco io, cosa ha controllato? L'ho visto misurando col test, non so manco cosa stava misurando. Diglielo cosa stavi facendo Gavino. Io dico di doppi dio di shock sono, dai, si chiamano così, sono in corto, poi vanno sostituiti. Niente di più. Te lo grazio. Sono rientrato. Allora si è rotto qua. No, un alimentatore che c'avevo che sono partiti dio di ciocco, così si chiama Gavì. E quindi l'ho dato a Gavino e adesso lo mette a posto, che serve a Massimiliano, capito? Riprendi Roberto. Sì, molte volte capitano questi alimentatori. Ok, chi è arrivato qua? C'è Gavino, Gianni Capri, tu Claudio, poi c'è qualche altro qua su 10. Avanti, lasciamo un attimino di bianco e vediamo un po'. Vabbè, Massimiliano è parito, ha detto ciao ciao ciao, invece deve andare di nuovo in bagno. Ok. Adesso ne ha approfittato troppo, capi? Così da ieri, oggi, boh, il compleanno di Gaia, oggi era. Oggi, e vai di lì, e vai, grazie. E se prendete torrenti, usci in altura, aspetta un attimo, vado in bagno. Alla torre, ciao, ciao, ciao, ciao. Cazzo, ma riesci a cusci. Gavi. Avanti. Ma le salsicce tutte se le mangiate, mi ha fatto vedere una fotografia di uno stabilimento di coso, di salume, una cosa mai vista. Le altre quante ce ne saranno? E poi mi ha detto una cinquantina, boh. Ma chi? Massimiliano? Massimiliano, cazzo, sembrava uno stabilimento di insaccati, quelli che fanno, dice l'abbiamo fatta al cinghiale, a Ghidu, Ghidata, dice la faccia. Ah boh, non lo so. Vabbè, Massimiliano c'è un sacco di amici che fanno queste cose, capito? Dove ci rimpiazzi? Dove ci sono gli insaccati? Capisci, come me l'ha detto, no? Ci siamo visti. Mi ha detto che era il compleanno di Gaia, quindi. Tutta la via nelle torrene, Se la c'è va che cuscio, ha mangiato troppo, rimane. Tu non c'eri perché? Sì, io c'ero. Stasera sono andato, sì, indubbiamente, ma sai, quando si organizza un po' di roba deve essere tutto a pennello, capito? Dunque per quello che da una parte all'altra, Massimiliano. Adesso magari sta pagando le conseguenze. Poi domani mattina deve lavorare presto, sai com'è? Sicuramente sta preparando anche la cena. E così. Hai registrato il break? Sto scherzando, vabbè, sicuramente l'ha chiamato qualcuno, come ha fatto l'altro giorno. Avanti break, Riccardo, avanti. Sono io che fra un po' me ne vado a pappare. Così sta con tutto qua perché stanotte ha dato acqua, anzi sta piovendo già. Nel sacco metto salvavita, vabbè, a zero, però stacco anche le antenne dal commutatore elettronico. Ci sono io, Roberto Gavino e Gianni Capri 2, Riccardo, avanti Roberto. Ehi, ciao Riccardo, ben sentito. Anche tu, se c'è modo di staccarti l'antenna, per sicurezza staccatela dall'apparato e allontanala il più possibile il campo. No, ma dico stanotte, prima di andartene, di andare a dormire, staccati l'antenna, non il commutatore, stacca proprio l'antenna fisicamente dall'apparato e la metti un più lontano possibile dall'apparato, perché tu sei in una zona, non sei come dentro noi in città, che ci sono altri palazzi, magari il fulmine scarica un palazzo più alto, tu sei in campagna, per cui non c'hai nessun riferimento di palazzo più alto di te, tanto il fulmine dove trova il punto più alto, tac e scarica e ti fa del danno. Sì, deve essere una cosa normale, staccare le antenne, soprattutto quando ci sono temporali in circolazione, anche se vedi delle scarichette, staccale sempre che sei più sicuro. Ok, Capri, ci sei ancora avanti? Ciao Gianni, salutami a Claudio, a moglie e company. Ok, grazie per le due chiacchiere, ci aggiorniamo, dai. Il cambio per Gavino, vai Gavi a girare. Ehi, anch'io fra poco vi lascio, dai, che preparo la cena. E niente, Cattedrale sto sentendo le sue scariche, ogni tanto se ne sente qualche una. Avanti Gianni, non c'è... Roberto. Sì, c'ho tutta la storia e lo conoscevo molto bene. Sì, è separato, è andato all'estero a lavorare, ha aperto un altro panificio all'estero. Sì, conosco Anna Maria, conosco a Claudio, conosco tutti, c'è anche i nipoti, conosco tutti, ma a me mi accompagna il figlioccio praticamente, capito? Che è il figlio di Bartolomeo Pisiele, che non c'è più, mi accompagna lui e quindi non ho problemi, dai, già so anche dove abita Palmaro, dove c'è la casa. Va bene, grazie dell'info Gianni, avanti Riccardo. Riprendo io, ciao Gianni, ben sentito, dai, io rimango ancora un pochettino qui, vado nell'altro ambiente, dai, che ci sono già un pochettino in questa radio, tra ieri e oggi, anzi tra stamattina, ieri no, ok, dai, chi tocca adesso, Gavin? Io adesso vi saluto, dai, sentiamo le prossime, dai, un saluto a tutti, Roberto, Claudio, vabbè, Capri 2 se ne è già andato, Riccardino, e a tutti, insomma, dai. Ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao ciao. Ciao Gavi, dai. Saluta Tonina. Buona cena, buon tutto e anch'io chiudo, dai Robby. Se coincide ci sentiamo dopo. Ok, altrimenti ritenetevi tutti salutati. Ciao Riccardo, Roberto, Massimiliano c'è ancora in ascolto, a te Gavino, insomma tutti quelli che siete su 10. Vado a cenare, se coincide a dopo, altrimenti tutto a domani. Ciao ciao, vai Roberto. Ciao Claudio, buon tutto, buona carica, dai. Io sicuramente non ci sentiremo perché non ne ho voglia, sinceramente. Ciao Gavino, anche a te ben sentito, alle prossime, dai, buona carica e buona giornata per domani a tutti e due. Vabbè, tanto Claudio, noi ci vediamo domani in officina per quella roba di Giovanni, dai. Claudio. Claudio, è fuggito, dai. Ok, chi è arrivato quindi Riccardo? Solo io e tu mi sembra, no? Proprio prendendo quella roba per Giovanni, me la stavo mettendo nell'ingresso, se no magari esco presto e me la dimentico, dimmi. Cosa ti do, quella specie di amplificatorino, lo vuoi provare? C'hai tempo per provarlo? Sì, dammelo, così è un B150, dammelo, è uguale al 747, non cambia niente. Dammelo, lo provo, se funziona, magari se lo devi dare serve a Luca un linealetto del genere. Vabbè, poi ne parliamo, adesso mi interessa solo sapere se funziona, poi lo vediamo, dai, e vediamo un po', dai, già si trova una soluzione. Sì, non c'è problema, attacco il mio e attacco quello, capito, sotto strumento, come ho fatto, come faccio sempre, ti dico se funziona o non funziona, se funziona un B150 è bellino, è uguale a 747, piccolo così, ha sempre funzionato bene, e magari se serve a Luca, se lo devi dare, dai a Luca. E poi già ne parliamo, vedi, vabbè, fai le prove, nel senso 2 watt di pilotaggio, 50 d'uscita, 3 watt, 60, in modo che sappia tutte le informazioni di quell'apparato. Sì, vabbè, io ho la radio questa che dà 5 watt, di più non posso dare. L'altro baracchino, sì, posso attaccare l'airbag che è regolabile, dai, da 0 a 10 watt, attacco quello, qui sono più sicuro. E ti do informazioni più dettagliate, ok? Dai, buona cena a tutti, ci sentiamo, vai. Luca, non c'è Luca, dai, ciao Riccardo, ciao a tutti, alle prossime, ciao ciao. Avvicinati un pochettino al microfono, ecco, domani ti arriva una stazione base, così adesso. E che stazione base è? Cavolo, una bella radio, Colt Excalibur, è come Saturn, ecco, quello argentato, in alluminio, colore alluminio, così. C'è la fotografia, mandami la foto, perché è uguale a Lafayette e Petrus, sono tre marchi che lo fanno simile, il Saturn Echo è nero, il Colt Excalibur, che poi vabbè ci sono anche altre versioni più limitate, per dire non con tanti canali, con solo 40 canali, no è bella, la bella radio, si assomiglia esteticamente al patch che c'è, l'hai visto quello che ti ho fatto vedere, quello alluminio, vabbè, ne hai visto tante, magari ricordate, quello alluminio che è illuminato di rosso, poi c'ha tre strumenti. Quello lì quanti strumenti ne ha? Uno solo di Colt. Ok, Call to Shadow si chiama, così è adesso. Di nome non lo conosco, io conosco il colto Excalibur, non può essere Excalibur. Sì, e allora è simile al patch che ho io. Anche il mio c'ha la M, banda laterale, c'ha tre strumenti, l'orologio, non ha il frequenzimetro, questo col frequenzimetro senza. Eia. Ciao Riccardo, non ben sentito, dai, ci sentiamo eventualmente domani. Oggi ti ascolto perfettamente di notte senza nessun disturbo, perché poi c'ho il QRM molto basso, stranamente, considerando che siamo quasi contemporale. E Luca, ci sei ancora? Se vuoi salutare a Riccardo, se no basta. Pare che non c'è più nessuno. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Che avanti. Vabbè. Tu eri Luca. Ma assolutamente, non è in cucina. Adesso chi è che ha fischiato? Non eri tu, no? Vabbè, dai. Infatti mi sembrava un segnale un po' più basso del tuo, ho sentito uno fischiare. Avanti, chi vuole entrare? No, non ero io. E infatti tu sei 9.30, questo era 9.20 il segnale, ok. Non è andato via Riccardino, non c'è più nessuno adesso. E basta, se vuole entrare qualcuno lo facciamo entrare, se no anche io tra poco vado via. E io ho già cenato, sono alla frutta, sto mangiando la banana, stavolta ho cenato. Ma tu stavi cercando un tornado di baracchino, Luca? 4005. Non so che modello sia, ne ha uno il padre di Riccardo, sempre bande laterali, AM/FM, però non ha il frequenzimetro, è tipo no, il Pluto c'ha il frequenzimetro, mi pare. Il cacciofono, ma che lo sta vendendo? No, non interessa, anche venderlo, ha detto, magari anche scambio o cosa del genere. Quello nero mi sembrava tipo il Typhoon, perché io ho un baracchino simile, però non ho le bande laterali. Io solo volevo un coso, un... Ma le Mavic l'Intec e le Mavic 40, che è nuovo, nuovo, con la fapa e tutto, è fiammante, come fare il scambio? Si può parlare domani quando c'è il coso. No, il Mobicom già funziona bene, l'ho dato a Giovanni, quello che c'aveva Natalino, diciamo, si era accordato anni fa, gli avevo fatto un lavoro alla macchina, me l'aveva dato, c'ho anche il microfono amplificato, l'hai visto Giovanni, c'è abbastanza bene, non dico che sia una bomba, va più che bene, dai. Poi altro c'è, ho provato oggi un paio di baracchini per farli andare, per vedere come andavo, la 48, poi c'era anche tu, l'altro intec base, il patch, c'ho il Ruiz sempre da far funzionare, però di lì c'ho solo il microfono, quello che mi hai dato tu originale. Sì, Robè, sì, sempre, allora, cioè, io ho una cosa, ma il mobico è nuovo, ho preso di staffa, purtroppo il microfono originale non funziona più, perché non ho le connessioni, volevo fare le connessioni, ma sono 6 fili da collegare, non 5. Ed era collegato anche il centrale, però non mi ricordo, mi sembra i colori giusti, vabbè. Il mio è nuovo nuovo, l'apparecchio è nuovo, abbastanza nuovo, 200 canali c'ha anche, la regolazione della potenza anche, con un microfono amplificato, già attaccato. L'M93 c'hai? No, era un'altra marca, no, era quella rotellina sopra. Ho capito. Ma l'hai fatto sentire qua il Mobicom? Qualche volta l'abbiamo sentito? A Puglia. Ma quello che fai sentire quando vai alla casa della tua fidanzata? No, questo qua lo faccio sentire a casa della mia ragazza. Quindi questo l'ho portato alla casa della tua ragazza, quello che sentivo qua. Quante volte l'hai sentito? Adesso a collegarlo non lo fa. Se vuoi, dai, ci provo un attimo. No, futidini, Luca, non c'è problema, adesso non mi ricordo, però se è quello che già l'ho sentito la già esce bene. Ma ci metto un attimo, aspetta. C'è qualche graffettino, quello sì, ce l'ha qualche, però è abbastanza nuovo come apparecchio. Non ho capito, scusa. Ho detto qualche graffettino ce l'ha, però è abbastanza nuovo l'apparecchio. È normale, cacchio, se tu lo usi, ci appoggi qualcosa, lo muovi, per forza qualche segno di usura ci deve essere. Guardate che l'apparecchio funziona. Aspetta un attimo, due secondi, quale volta la tua voce sentita? Ehi, intanto canale 10, se c'è qualcuno che vuole entrare, ancora per qualche minuto, perché poi anche io vado in QRT. Che avete sul 10? Prova. Ah, tu sei lui. Guarda un po', vabbè, 1, 2, 3, prova. Prova radio, prova, 1, 2, 3, prova. Frequenza 27.075, c'è anche il frequentimetro. Sì, sì, lo conosco, ce l'ho guardato. Allora, questa radio è chiara, pulita, però l'altra è la musica, molto più forte. Il segnale è un po' più basso questo, quell'altra spinge di più. Vabbè, ora un po' si aumenta, aspetta. Aumentato il segnale? Sì, a voglia, 9 più 30. Visto, questo qua faccio 2 watt, 10 watt. Ah, non sei l'amplificatore, con l'amplificatore? No, non c'è il tastino della potenza. Non c'è, che neanche me lo ricordo che c'aveva il tastino con l'apparecchio, non me lo ricordavo, l'ho usato poco. Me. L'altro invece è quello che c'ho, l'intec base, quello lì è bello perché c'è la regolazione della potenza, da 0 a 5 watt. Poi c'è il Roger Beep e l'eco, anche se l'eco, boh, l'ho sentito, ma mi pare che non funziona, sembra più un reverb. Funziona bene, roba, perfetto. Ho messo anche i LED nello smitter, capito? C'è lo smitter, ma poi c'è uguale, là. Non c'è che se metti di pulire con me. Mi sei che ti mando la foto? No, lo conosco Luca, ce l'ho io, identico, ti ho detto, l'ho dato a coso, a Giovanni, come si chiama, Bracco. L'ho dato l'altro giorno e più gli ho dato il microfono amplificato, lui sta uscendo con quello lì quando lo senti. Ti ho mandato la foto, abbastanza nuovo, là. Prova. Sì, l'ho visto, sì, uguale a quello là, è nuovo quello. Ma ti hai verniciato il coso tu, Luca? Niente, l'ho verniciato, è originale. Il mio è di diverso colore, il mio è tipo verde militare, questo è nero, come mai? No, è grigio roba, no, la foto è grigio, è verde militare anche questo qua. E questo Astral, questo microfono, ma non l'hai mai provato con un microfono tipo M93, cosa del genere? No, non ne ho. No, Riccardino mi ha mandato la foto di questo Colt, bello, una bella radio, stazione base, non la conoscevo. Colt? Non lo so. Fatti mandare le foto dalla radio se vuole. Questo c'è la staffa, io vogliamo la staffa, eh. E questo qua è, diciamo, è perfetto. Vediamo un po'. Ok. Fa un passaggio, roba? Io? Tu sei 9.25, quando parli arriva 9.30. Una cosa, guarda Luca, visto che io non lo faccio mai, guarda un po' adesso se il segnale aumenta. Sì, sei 9.30, poi sei sastro. Vabbè, aspetta, abbassiamo un po', guarda adesso. Ma sei, prova a parlare. Hola, prova radio. È più compressa la radio, abbassa un po'. Ah, vabbè, abbassa un po' la porta. Hola. No, ma devi parlare, Robert, così lo fisco, mica lo capisco se sei sastro o no. Hola, prova radio, 27.075. È compressa, abbassa un po'. 1, 2, 3, prova radio, anche io la sento un pochettino. Guarda un po' adesso. No, abbassa. Hola. Comunque sei 9.30, dai. Vabbè, lasciamo sempre il solito, dai, mi tengo sempre. A me non piace sollevare le cose, dai. Qualche lavoretto c'è da fare in questa radio qua, dai. Poi c'è tutto il discorso con tutti i cavi, controcavi, commutatori, fa troppi giri, probabilmente è anche per quello che non sta andando, non è con antenna diretta questa, dai. Ok Luca, io adesso vado via, dai, che ci sono già da un po' in questa roba. Ho messo sull'antenna, se la vedi Luca ti metti le mani in testa, quell'antenna, 9 metri di antenna, più ci sono 3 metri di palo, è quasi quanto la manta va arrivata di altezza. Non ho messo i cavi, ancora non l'ho messo, non l'ho sollevata completamente. Che antenna? Un'antenna multibanda PKV030, la metto per abbassarmi quando c'è QRM forte, che ci sono spagnoli, mi voglio abbassare un po' i segnali, perché sennò arriva tutta la mondezza. Ma oggi l'hai piazzata? Eia, devo sollevarla un pochettino, perché allora con l'antenna c'è il difetto che per sollevarla devi metterla proprio in cima al palo, in alto, non ci sono riuscito da solo e l'ho messa giù, perché non riesce a piazzare uno di quelli, c'ha 5 radialini sotto, saranno di 50 centimetri, un po' grossi sono, e un radialino tocca sul palo, allora devi metterla in cima al palo, però da solo non ce la facevo, l'ho lasciata giù, con un radiale in meno. Ah, ho capito, ehi, vabbè, là. Vabbè, se vuoi andare, comunque accennaglielo, se lo vuole, però deve essere, insomma, in ottime condizioni, là. Si prova, questo lo stai sentendo che è perfetto. e naturalmente le cose vanno provate. Dai, ne parliamo domani con Riccardo o col padre. Dai, già lo sento, tanto viene molto spesso vicino all'officina, lui lavora lì attaccato. Se domani viene ne parliamo. Ok, io faccio QRT, dai, ci sentiamo magari domani. Ciao ciao. Ciao Roberto. Tutti morti, aspetta. Cicco, c'è qualcuno in questo canile? Cicco 27, Cicco 27. Ma stanotte a quanto pare sono già andato a dormire. Mannaggia la miseria. Ok, anch'io me ne vado a letto. No, non a letto, devo lavorare, questo più che andare a letto. Sono riuscito a fare 3 collegamenti su 40 metri, incredibile. Un'antenna precaria proprio, una manto, ma sui 40 metri sembra impossibile, pure ci sono riuscito. Vabbè, vuol dire che in seguito metteremo qualcosa di meglio, per adesso lasciamo tutto com'è, perché a dire la verità mi era passata la voglia di modulare, adesso ho ripreso, non so quanto mi duri.